2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e Twitter. Basta cercare 2024 o Enrico Pagliarini. Dunque, ci sono due vicende di attualità che abbiamo commentato questa settimana all'interno dei nostri programmi e anche all'interno di GR24, che sono in qualche modo legate alla tecnologia. Una è la rete di spionaggio scoperta in Italia, una rete che aveva tentato di colpire anche alcuni personaggi importanti della politica italiana. Alcune persone sono state colpite, sono state estrapolate alcune informazioni dai computer, da uno scambio di email, ma su 18.000 e oltre bersagli, una percentuale piuttosto limitata è stata colpita. Di questo parleremo più tardi, a 2024. Poi c'è un'altra vicenda che è legata alla tecnologia. Di nuovo una casa automobilistica è nel mirino dell'Agenzia Americana per la Protezione Ambientale per un presunto, a questo punto poi vedremo come si difenderà FCA, quindi Fiat Chrysler, da un'accusa dell'Agenzia Americana per la Protezione Ambientale di aver utilizzato un software per aggirare le limitazioni sulle emissioni dei diesel. E anche in questo caso stiamo parlando di una notizia che riguarda la tecnologia, perché stiamo parlando di software. C'è chi dice che il software si sta mangiando il mondo, per sottolineare l'importanza crescente che ha il software. Software is eating the world, alcuni dicono, e questa è una ulteriore conferma. Alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Da molto tempo in tutto il mondo gli scienziati, ma anche alcuni imprenditori illuminati, richiamano l'attenzione della politica alle conseguenze dell'uso di sistemi di intelligenza artificiale. Alcuni di questi ne abbiamo anche ospitati a 2024. La notizia di questa settimana è una buona notizia. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a regolamentare l'uso di questi sistemi automatici e anche dei robot che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, ovviamente. Quattro sono le sfide, secondo il Parlamento europeo: la personalità giuridica delle macchine, la responsabilità per eventuali danni provocati dalle macchine, le possibili dipendenze emotive degli esseri umani rispetto ai robot con intelligenza e anche capacità di apprendimento autonomo. E infine, questo è un altro dei grandi problemi dei prossimi anni, il rapporto tra l'aumento della robotizzazione, dell'automazione, dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e la possibile disoccupazione. Uno dei grandi problemi che dovrà affrontare anche l'Europa nei prossimi anni. In un mondo dove la differenza la fa sempre più il software, Nintendo torna a puntare anche sull'hardware e ha annunciato che la nuova console da gioco Switch arriverà sul mercato il 3 marzo a 330 euro. Sarà interessante vedere la reazione del mercato, perché alle console tradizionali fanno sempre più concorrenza tutti gli altri giochi che possono girare su smartphone e tablet, ma sempre più su smartphone, visto che la mobilità ha un ruolo molto importante oramai anche nel mondo del videogioco. Altro strumento che ancora non era disponibile in Italia è Nest, il termostato di Google, azienda acquistata da Google, ma che oggi fa parte appunto dell'offerta di Google. Arriverà sul mercato italiano il 15 febbraio a 249 euro. Nest promette un uso più efficiente del riscaldamento domestico grazie alla capacità di imparare le abitudini della famiglia, quindi anche qui stiamo parlando di intelligenza artificiale, di machine learning, quindi capacità delle macchine di apprendere. In questo modo accende, spegne o regola il riscaldamento o il raffrescamento, quindi l'aria condizionata, in base anche ai dati di geolocalizzazione degli smartphone della famiglia. Quindi ad esempio, se una persona della famiglia sta andando verso casa, magari il sistema aumenta il riscaldamento. Un'ultima notizia riguarda uno dei nuovi soggetti importante per la posa di fibra ottica in Italia. I consigli di amministrazione di Enel Open Fiber e CDP Equity hanno approvato la fusione per incorporazione di Metroweb in Enel Open Fiber. È previsto che la fusione venga completata entro la fine del primo trimestre del 2017. Comunque si tratta di un nuovo passo in avanti per la costituzione di questo player importante per la posa di fibra ottica in Italia. Mercoledì scorso, l'11 gennaio, la Norvegia ha cominciato a spegnere le trasmissioni in modulazione di frequenza della radio nazionale, pubblica e privata, che nel corso del 2017 passerà alla sola trasmissione digitale DAB+. Lo spegnimento dell'FM si concluderà il 12 dicembre. Rimarranno in FM solo 200 piccole radio locali. Sì, alcuni dicono, sono 200. Certo, stiamo parlando di un numero sicuramente non basso, ma stiamo parlando anche di un territorio molto vasto e queste radio in modulazione di frequenza molto spesso coprono piccole porzioni del territorio e sono ascoltate da, addirittura in alcuni casi, poche decine o centinaia di persone. Questo è il primo paese al mondo che passa alla sola trasmissione digitale DAB+ per la radio nazionale. La Svizzera ha deciso di passare alle sole trasmissioni digitali DAB a partire dal 2020. Per il momento nessun altro paese del continente europeo ha preso una simile decisione, anche se ci sono discussioni abbastanza avanzate in Gran Bretagna, Danimarca e Germania. E in Italia che cosa succede? Allora, a livello di radio nazionali ci sono tre entità che lavorano allo sviluppo della radio digitale: la RAI e due consorzi, Eurodab e anche DAB Italia, di cui fa parte Radio 24, e magari alcuni dei nostri ascoltatori ci stanno ascoltando attraverso le frequenze della radio digitale DAB+, la Digital Radio. Il direttore di DAB Italia è Sergio Natucci. Beh, la situazione è positiva perché la nostra rete, per esempio, copre già il 78% della popolazione per la ricezione in esterno, in mobilità, e intorno al 55% per la ricezione domestica. Quindi diciamo che, perlomeno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda le emittenti della piattaforma DAB Italia, siamo decisamente a un buon punto. La strada è ancora lunga, ci vorrebbero altri interventi. Un altro operatore, Eurodab, anch'esso è abbastanza in avanti, molto più indietro la concessionaria pubblica. Diversamente dalla Norvegia, il nostro servizio pubblico radiofonico stenta ad avere il coraggio di fare questo passo. Un passo straordinario, quello della Norvegia, che lascia sostanzialmente al palo tutte le altre grandi nazioni. Adesso parliamo di security, di cyber security, di sicurezza informatica, di attacchi informatici. Partiamo però dal Medio Oriente, da una notizia che è stata rivelata alla stampa da una fonte di intelligence militare israeliana, che ha ammesso che Hamas ha acquisito la capacità di accedere agli smartphone, ai telefonini dei soldati israeliani, e sorprende, perché solitamente quando parliamo di security, gli israeliani, le società che si occupano di sicurezza, i militari israeliani sono sempre al vertice, molti esperti di sicurezza informatica provengono o comunque hanno studiato e lavorato in Israele, quindi sicuramente una notizia sorprendente. In questo modo Hamas è capace di raccogliere informazioni e di utilizzarle all'insaputa degli interessati. Secondo questa fonte di intelligence, negli ultimi mesi decine di telefoni dei soldati sono stati violati da Hamas, però adesso se ne sono accorti, anzi, questa fonte dice ce ne siamo accorti in modo molto veloce, perché questo è un altro aspetto molto importante. Magari si viene attaccati, ma una cosa importante è riuscire ad accorgersi e a trovare contromisure, quindi a reagire a questi attacchi. L'uso dei captatori software è abbastanza diffuso fra le intelligence e le polizie di tutto il mondo, così come lo sono anche le contromisure, ma c'è un dato importante: che questo tipo di tecnologie sta diventando sempre più economico e quindi sempre più diffuso. Se scendiamo di livello, quindi se non parliamo di intelligence, di militari, di organizzazioni internazionali, sempre tecnologicamente parlando, si pone a livello più basso, dicevo, il recente caso di spionaggio scoperto in Italia questa settimana e che ha portato all'arresto dei fratelli Occhio Nero. Allora, che cosa è successo? Qui non stiamo parlando di intelligence, non stiamo parlando di militari, stiamo parlando forse di un'organizzazione, lo vedremo nel proseguo dell'indagine. Ma che cosa è successo dal punto di vista tecnologico? Matteo Flora è un esperto di sicurezza informatica, sicuramente uno dei più ascoltati in Italia, fondatore di The Fool. Allora, in realtà è stata trovata una infrastruttura dedita alla intercettazione telematica di una serie di personaggi. Un'infrastruttura che era fatta da una serie di componenti server in cui venivano caricati i contenuti che venivano trafugati e da una parte invece che veniva installata sulle macchine, un Trojan a tutti gli effetti, un software malevolo che intercettava quello che veniva scritto, le password che venivano scritte e poteva spostare anche file da una parte all'altra, gestiti direttamente da una mente unica. Tra l'altro gestiti da una mente unica pare da svariati anni, con un livello, questo Trojan, di sofisticazione, almeno a un primo esame, pare molto basso. Nella realtà funzionava più o meno come funzionano i cryptolocker che abbiamo imparato a conoscere, cioè inviati come allegati che qualcuno poi apriva. Ecco, da questo punto di vista, sempre dal punto di vista tecnico-tecnologico, stiamo parlando di quindi non di un attacco complicatissimo, e qualcuno ha detto stiamo parlando di un attacco simile a tantissimi altri attacchi che ogni giorno chi si occupa di questi temi incontra in rete. Sì, stiamo parlando di un attacco che è praticamente paragonabile a uno dei cryptolocker che troviamo, fatto un po' meglio, perché nella realtà le mail di partenza provenivano da una serie di mittenti che erano stati i primi, tra l'altro, infettati da questo Trojan, piuttosto autorevoli, grandi studi di commercialisti, grandi studi legali, realtà anche amministrative territoriali, quindi dei mittenti di un certo peso, che ha contribuito ovviamente a rendere più appetibile il fatto di aprire questo tipo di contenuti. Però sì, è vero, nella realtà ci troviamo di fronte a un Trojan casalingo, potremmo quasi dire, che però è riuscito lo stesso a carpire migliaia di credenziali e dati di centinaia e centinaia di persone. Questo significa che l'ingenuità o l'incompetenza di alcune persone anche di fronte a sistemi di questo tipo, che non sono tanto sofisticati, gioca un ruolo fondamentale, o che anche sistemi non molto sofisticati possono in qualche modo o in qualche condizione bypassare alcune difese tecnologiche. Ma in realtà ci troviamo a una vittoria dell'inventiva semplice e una totale sconfitta su tutta la linea dell'intelligenza, perché davvero per evitare questo tipo di attacco sarebbe bastata non una nemmeno una competenza informatica media, ma addirittura proprio la competenza basilare che mi dice, ad esempio, non aprire eseguibili di cui tu non sai la provenienza. Certo. A noi utenti di tutti i giorni, oppure a noi utenti in azienda, o a noi imprenditori, piccoli o grandi che siamo, che cosa insegna tutto ciò? Che, ripetiamo, è uno dei tanti casi, potremmo parlarne anche in altre occasioni. In questo caso se ne parla perché appunto i nomi di alcuni personaggi più che spiati, oggetto di un tentativo di attacco, hanno fatto crescere forse in modo anche esagerato la notizia. Però che cosa insegna a tutti noi? Secondo me ci portiamo a casa tre insegnamenti. Il primo è che ancora ad oggi, all'alba del 2016, basta veramente poco per, diciamo, per infrangere quello che è la sfera privata. Quindi il livello di competenza media di professionisti anche stimati non è basso, ma è inesistente. La seconda cosa è che scopriamo che nella buona parte di grandi studi professionali e di istituzioni anche dello Stato non esiste una cultura di base, nemmeno arrivata al punto di installare un antivirus. E il terzo, da un punto di vista imprenditoriale, scopriamo che per i prossimi probabilmente 50 anni la vita di chi si occupa di sicurezza informatica sarà assolutamente garantita, perché negli ultimi 20 anni, a quanto pare, il progresso delle capacità degli utenti non si è mosso nemmeno di un centimetro. Beh, almeno di alcuni utenti. Questa era la voce di Matteo Flora. Adesso ci facciamo un'altra domanda. Per una persona normale o una persona che abbia poca esperienza nell'uso della tecnologia, quanto è facile o difficile acquistare sul mercato soluzioni per mettere in piedi un sistema di questo tipo? Federico Maggi è un ricercatore che si occupa di minacce digitali all'interno di Trend Micro, una delle multinazionali della sicurezza. Ci sono diverse sorgenti, è possibile, come dire, da autodidatta sapere dove andare a cercare e poi acquistare questo tipo di strumenti, per proprio autorizzati o non autorizzati. Ecco. Banalmente, se è necessario fare un'intercettazione autorizzata, allora si usano strumenti analoghi, però dietro autorizzazione. Certo, però quindi, quello non riguarda l'uomo della strada, diciamo, sull'uomo della strada se fa una cosa del genere. L'uomo della strada. Diciamo che per una persona che ha delle medie conoscenze informatiche, che magari conosce un po' l'inglese, quindi sa muoversi bene su internet, anche su siti al di fuori del panorama italiano, ci sono diversi mercati, noi li chiamiamo marketplace, sul web pubblico e sul web non noto, quindi deep web, dove è possibile recuperare dei kit di sviluppo o addirittura lo strumento già pronto da modificare allo scopo per effettuare intercettazioni di questo tipo. Stiamo parlando di tecnologie molto costose o, oltre al fatto che mi sembra di aver capito che non è così complicato, cioè se uno si applica riesce in qualche modo a mettere assieme tutti i pezzetti al posto giusto e ottenere qualche risultato, ma a che costi? Non decisamente proibitivi per uno strumento già noto, ad esempio una delle infrastrutture di attacco più comuni, che va sotto il nome di Zeus e tutte le sue varianti, è quella più grande conosciuta, utilizza un tipo di malware che può essere acquistato per qualche migliaia di euro, insomma, ma anche meno ultimamente, insomma, sono... Sì. Una volta che queste tecnologie diventano popolari, poi diventano facili da rilevare e quindi il loro valore di mercato si abbassa. Certo. Se invece è necessario uno strumento molto mirato, magari per un'intercettazione estremamente delicata, da utilizzare soltanto verso certe vittime, allora ci sono delle aziende specializzate che li producono e allora il costo può anche alzarsi, però ovviamente è un po' diverso, un po' diverso lo scenario, non sì. È questo il caso. E quanto è facile difendersi? Parlo del privato o dell'azienda? Beh, la prima cosa è sempre l'educazione di chi effettivamente sta davanti al computer, che è il fattore principale. Ci sono una gran quantità di strumenti tecnici, quali antivirus, filtri di posta elettronica, filtri anti-phishing, eccetera. Tuttavia, l'ultimo anello è sempre l'essere umano quando si tratta di attacchi di phishing come questo, perché alla fine il vettore è stato una serie di mail di phishing. Purtroppo l'ultimo gradino è appunto l'essere umano, che se ci sono una serie di fattori che possono portarlo in inganno, tuttavia l'educazione a una cultura informatica e alla sicurezza è fondamentale. I fattori di cui parlavo sono ad esempio la fretta che uno può avere nel momento in cui sta lavorando e sta prendendo un allegato, la quantità di informazioni che normalmente processa, cioè se uno legge 2 mail al giorno se ne legge 200, più tutta un'altra serie di fattori, quali la fiducia nei confronti di chi invia la mail. In questo caso è stato abbastanza fondamentale perché le mail arrivavano da una serie di vittime ben conosciute dalle vittime finali. E quindi è importante la tecnologia, ma è altrettanto importante il nostro livello di conoscenza e di competenza. Se vogliamo fare un paragone con le automobili, ok avere auto con sistemi di sicurezza, ma se chi guida è capace di guidare bene ed è prudente, ci saranno meno incidenti. E così come per gli incidenti stradali, anche gli incidenti informatici hanno un costo sociale. Pensate, questa è una di quelle cose che si dice spesso, gli esperti di sicurezza lo dicono spesso, molte aziende sono sotto attacco informatico e manco se ne accorgono e ci sono milioni di dati, miliardi di dati, di informazioni, molto spesso anche informazioni preziose perché riguardano la proprietà intellettuale di queste aziende, che vengono prelevati e vengono portati in altre nazioni, vengono utilizzati e copiati da altri. E questo è sicuramente un costo sociale, un costo legato alla competitività del paese. Un'ultima considerazione la lasciamo a Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale di Day.it. Io credo che sarebbe già un bel passo avanti se incominciassimo a parlare anche di queste vicende proprio in termini di carenza di competenza e di necessità di colmare questa competenza. Cioè noi non dobbiamo raccontare questa vicenda come appunto la grande spy story, siamo tutti a rischio, siamo tutti in pericolo, ma semplicemente come una banale vicenda di uno dei tantissimi malware e virus che riceviamo tutti i giorni sulle email e delle piccole facili contromisure per difendersi e quindi per evitare il contagio. E questo è una critica invece e quindi anche un'autocritica al sistema dell'informazione di cui noi facciamo parte, e anche chi fa informazione dovrebbe forse documentarsi e studiare un po' di più per dare la giusta dimensione a questi fatti. Come abbiamo visto, poi le persone che erano state date per spiate, addirittura il telefonino di Renzi, avrebbero preso il possesso del telefonino di Renzi, ecco, questo era tutto completamente infondato e dettato da una lettura sbagliata dell'ordinanza di custodia cautelare, sbagliata soprattutto perché è letta un po' velocemente e un po' senza avere le giuste competenze per capire che cosa voleva dire essere in possesso di un account, cioè semplicemente di un'email, o essere in possesso di quell'account e della password per accedere all'email. Sono due cose completamente diverse, due dimensioni diverse che sono state equivocate. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco, parleremo di pubblicità online, di comunicazione digitale. Anche qui ci sono delle trasformazioni molto forti in atto, ne parliamo tra poco, a 2024. Bentornati, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Facebook o Twitter, cercate 2024 o Enrico Pagliarini. Vi ricordo che tutte le nostre interviste saranno in versione integrale nella versione podcast del nostro programma. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it oppure scaricate la nostra applicazione o utilizzate una delle tante applicazioni sia per Android che per iOS che possono gestire il podcast. Con tutte queste applicazioni potete scegliere uno dei programmi di Radio 24 e naturalmente noi vi consigliamo 2024. Adesso parliamo di quella che viene definita pubblicità online, si sta trasformando in qualcosa di più complesso, molto più complesso. Saluto Nereo Sciutto, che è presidente di Web Ranking. Bentornato 2024. Grazie. Voi vi occupate di

di personalizzare sempre più la comunicazione pubblicitaria basandosi sui famosi dati. Si parla spesso di big data, di analisi dei dati, quindi di analytics, quindi di capacità di analizzare questi dati, e io penso, ma non è che lo penso solo io, che il futuro sia sempre più spinto in verso questa direzione. Ecco, che cosa sta cambiando e com'è oggi la comunicazione? Allora, è cambiato tantissimo, secondo me in meglio. Bisogna parlare un attimo per dissipare alcune aree grigie o dubbi. Alcune anche leggende. Leggende. No, alcuni sono anche problemi effettivamente sul campo, però. Sì, infatti diciamo che comunque per fortuna anche quando non ce ne stiamo occupando noi come utenti ci sono i governi stessi che sono molto attenti ai temi di privacy e di proprietà di questi dati, quindi comunque c'è qualcuno che ci protegge. Nel caso dell'Italia addirittura ci protegge tanto. Penso che quasi tutti abbiate subito con un po' di difficoltà il tema della cookie law, che è quella che ha fatto comparire un pop-up in tutti i siti italiani dalla mattina alla sera. In tutta Europa. Europa. Europea. Sì. Diciamo che quella ogni garante e per la privacy, ogni governo l'ha recepita in maniera diversa. Tu dici qua l'hanno recepita proprio in modo rigorosissimo. L'Italia è una sorta di benchmark anche per la comunità europea in termini di privacy. E diciamo che siamo molto bravi su queste cose. Comunque, tornando al discorso della pubblicità, quello che sta facendo il cosiddetto mondo della pubblicità display, che riguarda la pubblicità visuale, quindi banner, i video, quindi la pubblicità che una volta veniva prenotata. Quindi io sceglievo che nel sito del Sole 24 Ore, nella tal fascia oraria, io e alcuni altri a rotazione acquistavamo una visibilità, quindi ho un riquadro, un banner, oppure addirittura quelle cose che si chiamano skin, che sono quelle forme visuali che vestono la cornice della home page. Esatto. Sì. In quel caso prenotavo uno spazio, prenotavo un numero di impression, di visualizzazione di questo spazio all'interno di una fascia oraria. Quello che accade oggi è che questo mondo sta cominciando a diventare un po' più intelligente, un po' più preciso, perché il rischio di comprare all'interno di una fascia oraria tutta l'home page di un sito italiano faceva vedere quel messaggio a un sacco di persone che non erano, come dicono i pubblicitari, in target, non erano interessate a quel genere di prodotto. Pensiamo ad esempio a un femminile molto forte, magari la pubblicità di un passeggino per chi non ha figli, quindi alla fine se io vado su un sito e vedo una pubblicità di un profumo direi che sono poco interessato e non sono probabilmente il target di quel messaggio pubblicitario. Esatto, quindi il tema era cercare di non disperdere. Prima era come se si bombardasse a pioggia qualsiasi cosa sperando di colpire, anche perché sempre il solito discorso per il quale il marketing ha un glossario bellico: target, obiettivi. Quindi prima si andava a pioggia e si cercava di colpire il proprio target che era nascosto in mezzo a tutto il resto, con un sacco di dispersione. Quello che sta facendo oggi la pubblicità display, grazie finalmente alla raccolta di alcuni dati e all'analisi di questi dati, è stato di cercare di capire se davanti a quel sito, all'home page del Sole 24 Ore, c'ero io, ci sei tu Enrico, c'era qualcun altro. E sulla base del fatto che siamo magari anche semplicemente uomini o donne o giovani o vecchi, papà magari, o madri oppure no. Esatto, che è quello che più o meno per chi usa Amazon, è una cosa che riuscite a vedere molto bene. Amazon, se cominciate a cercare prodotti per l'infanzia, presuppone che voi stiate o per avere un bambino o l'abbiate appena avuto, quindi tenderà a farvi vedere prodotti o suggerirvi prodotti che sono legati alla vostra nuova realtà e non sicuramente un'auto coupé o non so, un biglietto per il teatro, perché in quei giorni magari siete più concentrati su altro. Per cui lo scopo di questo genere di mondo è quello di dare un messaggio che sia sempre più basato sugli intenti, come succedeva per la search, o sui momenti particolari della vita in cui ci troviamo. Se è estate e stiamo cercando viaggi, io personalmente sono più contento se i siti tendono a propormi pubblicità di viaggi, ma soprattutto di viaggi nei posti che sto cercando, quindi mi aiutino a trovare il prodotto. Quindi tu dici in questo caso la profilazione, quindi tutti i dati che io consciamente o inconsciamente, sapendolo o non sapendolo, metto in rete, e sono veramente tantissimi, perché pensate a quante volte uno installa un'applicazione sullo smartphone e dice accetta, e molto spesso accetta cose di cui che ignora, e pensate ad esempio, poi è un tema di cui vorrei parlare, pensate alla geolocalizzazione. Tutti gli smartphone ci geolocalizzano e quindi i sistemi che poi erogano anche pubblicità sanno dove ci troviamo. Quando tu dici che questi sistemi sanno chi c'è dall'altra parte, allora specifichiamo che nella stragrande maggioranza dei casi stiamo parlando di saperlo in forma anonima, cioè sanno che tu sei un uomo che vivi nel nord Italia, che sei italiano, che hai questi, che ne so, la passione per i viaggi oppure un altro tipo di interesse, però ricordate che ci sono alcuni siti, social network, eccetera, eccetera, nei quali noi siamo spesso loggati, si dice, quindi siamo registrati, quindi in quel caso questi operatori che possono utilizzare o vendere i nostri dati anche a network pubblicitari sanno molto di più, cioè sanno che io mi chiamo Enrico Pagliarini e abito nel tal posto. Sì, tipicamente quando accettiamo le policy di privacy che sono in fondo ai siti nei quali ci registriamo, ci sono sempre due forme di autorizzazione. Una che lascia l'autorizzazione al sito o all'operatore o all'azienda nella quale ci stiamo registrando, e l'altra che è la cessione dei dati a terzi. Oggi quello che accade è che, nella mia esperienza, il problema della cessione dei dati a terzi sia più legato all'email marketing e comunque abbia avuto una sorta di crescita negli ultimi anni, ma è sempre rimasto circoscritto a un certo genere di mondo. I grossi player della pubblicità digitale, Facebook, Google, Amazon, tutti gli altri che vedete, ma anche lo stesso direttore del Sole 24 Ore, sono tutti player che sono molto interessati al dato che hanno e che stanno cominciando progressivamente a non cederlo a terzi, perché hanno capito che quando tu ti registri su un sito, la qualità dell'informazione che ti possono dare e anche l'attenzione che danno ai propri clienti fa la differenza. Quindi la frequenza dei messaggi che ricevi in termini di, anche di newsletter o di comunicazione display è fondamentale, per cui chi ha questi dati registrati tipicamente li usa in maniera intelligente e ne capisce il valore, quello che è successo in passato che non se ne capiva il valore. Vi faccio un esempio fra tutti, pensate a Sky. Quando io sono registrato sul sito di Sky tendo a vedere pubblicità dei pacchetti che non ho acquistato, perché Sky sta usando un dato che viene chiamato di prima parte, un dato che ha. Sa che io ho comprato il pacchetto cinema e non ha senso continuare a farmi vedere la pubblicità del pacchetto cinema, perché sa benissimo che ce l'ho. Certo. Quindi chi coltiva la relazione con i propri clienti, fa quello che viene chiamato il CRM, la gestione del cliente, in maniera intelligente, sa che questi dati hanno un valore, quindi tende a tenerli al suo interno. Certo. O ci sono anche quelli che fanno questa attività o che non fanno questa attività o che la fanno male. Sì, esisterà sempre. Perché il caso di quando parlo di queste cose, c'è chi mi dice ma io ho appena comprato un viaggio per Cagliari e mi continua a venire fuori la pubblicità dei viaggi a Cagliari. Ma se l'ho appena comprato non sono più... Però, quello è un problema, quello è un problema proprio di ma anche non tanto di scarsa etica dell'operatore, è proprio quella di qualità di chi fa questo lavoro. Oggi siamo di fronte a una specie di nuovo gioco, è come se ci avessero messo di fronte il cockpit di un aereo di linea con tutti i pulsantini e noi fossimo abituati a guidare il triciclo. Diciamo che ha molte potenzialità questo strumento, ma ancora sta andando tutto talmente in fretta che molte anche agenzie blasonate non lo sanno usare bene. Ti faccio un esempio molto stupido. Quando mi reco in alcuni siti, guardo un prodotto, capita che questa pubblicità mi insegua in maniera veramente pressante. Il fatto che sia troppo pressante è già un problema, ma il fatto che una volta che io finalmente mi convinco per sfinimento o per altri motivi di comprare effettivamente quel prodotto su quel sito, basterebbe che il proprietario del sito staccasse, una volta che ho comprato il prodotto, il mio utente da quel genere di pubblicità, perché sta continuando a propormi pubblicità, quindi sta sostenendo costi, sta pagando per farmi vedere un prodotto che io ho già comprato, il che è francamente è una perdita di tempo controproducente, ma anche di denaro. Tu hai di fatto accennato ad una figura che è molto importante, che è rarissima, che sono i data scientist, cioè gli esperti di analisi dei dati. Sono quelle persone, quei mestieri di cui qualche anno fa non si sapeva nulla. Oggi nessuna università costruisce o produce o insegna data science. Cominciano i primi master universitari, che sono un po' più veloci del mondo universitario nel formare professionalità. Sono quelle persone che come lavoro prendono queste grandi mole di dati e cercano di estrarre della conoscenza, che tipicamente la conoscenza è in termini di azioni. Sulla base di questi dati ho scoperto questo, ma allora perché non proviamo a fare in quella maniera? Oggi big data secondo me sono un grosso flop, nel senso che tutti ne parlano, mm-hmm. I dati sono disponibili. La mancanza di questo genere di figure che, prendendo i big data,

Ci risentiamo la prossima settimana.